2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre siamo in onda nel fine settimana, all'inizio del fine settimana, venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14. Ma trovate tutte le nostre interviste in versione integrale nella edizione podcast di 2024. Dunque, la settimana si è aperta con una conferenza stampa di Samsung molto attesa, dalla quale sostanzialmente non sono emerse tantissime novità. Direi un po' di conferme su quello che già si sapeva. Conferenza stampa durante la quale l'azienda coreana ha illustrato i risultati delle indagini sulle, chiamiamole per chiarezza, esplosioni delle batterie dei Galaxy Note 7. Comunque c'era un principio di incendio, comunque una sorta di trasformazione delle parti chimiche all'interno della batteria, tali per cui il risultato finale assomigliava ad una sorta di esplosione, di un qualcosa che prendeva fuoco. Problema che, ricordiamo, riguardava una percentuale minima dei prodotti, ma che comunque portate al ritiro dello smartphone da tutto il mercato in tutto il mondo. E secondo questa analisi che è stata presentata durante l'inizio della settimana, la causa è un difetto di fabbricazione delle batterie, cosa che si era già detta ma non c'era una certezza. Pensate che alle indagini hanno lavorato 3 società esterne, 700 esperti su un campione di 200.000 smartphone e 30.000 batterie. Abbiamo ovviamente altre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. La prima notizia riguarda sempre Samsung. Secondo varie indiscrezioni e anche alcune foto pubblicate su alcuni siti, il nuovo smartphone top di gamma di Samsung, il Galaxy S8, arriverà sul mercato il 29 marzo con un formato molto ampio. Stiamo parlando di schermi da 5,8 e 6,2 pollici, con il display che occupa tutta la superficie frontale del telefono, senza cornice e senza tasto fisico. Dovrebbe esserci l'ingresso mini jack audio e questa sicuramente è una novità, se venisse confermata, molto importante, perché vorrebbe dire che Samsung, almeno per il momento, non segue la via indicata da Apple togliendo il mini jack audio dall'ultimo iPhone. Però ci sarebbe comunque anche una USB tipo C. Vedremo quello che succederà. Certamente, viste le ultime cose che sono accadute a Samsung, c'è molta attesa per questo nuovo prodotto che non arriverà durante il Mobile World Congress di Barcellona. Facebook ha annunciato l'avvio di un test in Australia e in Thailandia per portare la pubblicità sulla schermata iniziale del Messenger. E qui ci arriva un'indicazione sull'evoluzione della pubblicità. Allora, i messaggi pubblicitari compariranno tra i nomi dei contatti preferiti e quelli degli amici attivi, nello spazio dove di solito si trovano i compleanni. Messenger, lo ricordiamo, è già oggi uno strumento molto utilizzato dalle aziende per dialogare con i clienti e ogni mese aziende e utenti si scambiano, secondo i dati pubblicati da Facebook, oltre 1 miliardo di messaggi via Messenger. Altra notizia che riguarda Facebook: Ugo Barra, il cui nome è legato al successo planetario di Android, ha lasciato la cinese Xiaomi, dove era approdato dopo l'esperienza in Google. Ora Barra andrà in Facebook per occuparsi di realtà virtuale in Oculus. Questa notizia è importante non tanto per sapere le vicende legate alla carriera di Ugo Barra, ma perché potrebbero esserci due letture. Realtà virtuale in crisi e quindi c'è necessità di una persona in gamba come Ugo Barra per trovare una via alla realtà virtuale, come alcuni dicono, oppure realtà virtuale assolutamente in forma, ma serve comunque un'accelerazione e Ugo Barra sicuramente potrebbe essere l'uomo giusto. Un'ultima notizia riguarda un'indagine realizzata in 17 paesi da GFK che ha intervistato 22.000 persone, il 27% degli intervistati, il 28% in Italia, ma comunque siamo sostanzialmente su numeri abbastanza simili, si è dichiarato disponibile a cedere i propri dati personali in cambio di servizi o vantaggi come ad esempio promozioni di prodotti o un'esperienza di acquisto più rapida e personalizzata. Il 19% delle persone intervistate non vuole però cedere i propri dati a nessuna condizione. Una percentuale che è più alta in Germania, che è praticamente il paese tra questi 17 che sono stati inseriti nel campione, il più attento alla privacy, perché il 40% delle persone dice no a qualsiasi cessione di dati. In Francia siamo al 37%, Brasile 34%, Canada e Paesi Bassi sopra il 30%. Notizia di questa settimana: Enel Open Fiber, che è la società che è stata creata per posare fibra ottica in tutta Italia, che si è integrata con MetroWeb, quindi è nato un'azienda molto importante, un campione nazionale per quanto riguarda questo settore. Allora, Enel Open Fiber si è classificata prima in tutti e cinque i lotti del primo bando di gara da 1,4 miliardi di euro per realizzare una rete pubblica nelle cosiddette zone a fallimento di mercato. Questo primo bando riguarda 6 regioni: Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Però per aggiudicare definitivamente questo bando saranno necessarie alcune verifiche finali, comunque tutte cose sostanzialmente di routine. Bisognerà però anche attendere alcuni ricorsi che sono stati presentati al TAR, ma in ogni caso la nota positiva è che il processo ormai è avviato. Io presumo che tutto vada nel verso giusto, anche perché molti mi dicono che questi ricorsi non hanno moltissime chance, però non bisogna mai dare una parola definitiva. Dicevo, però, è importante questo giro di boa di questo progetto che il governo ha varato lo scorso anno, e va dato atto al governo che per la prima volta nella storia dell'Italia alla costruzione di una rete a banda larga vengono dirottate molte risorse pubbliche. E questo piano è sicuramente un piano molto importante, va visto in prospettiva, perché stiamo parlando di un piano da qui al 2020, poi forse ci sarà magari uno slittamento di uno o due anni, vedremo, però questo è un giro di boa importante. Allora, per fare il punto della situazione, anche per ricapitolare in che cosa consiste questo piano, quali sono gli obiettivi del piano, ho parlato con una persona che ha lavorato al piano banda larga, sicuramente è stato uno degli ideatori, una persona che ha lavorato molto a questo progetto, Raffaele Tiscar, che è ex vice segretario generale della Presidenza del Consiglio fino a poche settimane fa, e che fino a poche settimane fa mi diceva sempre no alle interviste, quindi da un certo punto di vista è positivo che sia un ex vice segretario generale alla Presidenza del Consiglio, anche se invece il suo ruolo e il suo apporto sarebbe stato fondamentale, molto importante ancora oggi, ma vedremo cosa succederà poi nei prossimi mesi anche per quanto riguarda il governo. Comunque facciamo il punto della situazione, l'ho incontrato proprio questa settimana, abbiamo parlato di questo progetto. L'obiettivo del piano è quello di creare un'infrastruttura in grado di poter fornire un servizio di connettività all'intera popolazione di almeno 30 megabit per secondo e di portare alla popolazione, almeno metà della popolazione, a sottoscrivere un abbonamento oltre i 100 megabit per secondo. Questo al 2020. Il piano si articola in varie fasi. La prima fase è quella relativa alla realizzazione di un'infrastruttura nelle aree a fallimento di mercato. Ricordiamoci che sono aree dove è stata accertata la non volontà da parte dei privati a investire, per dotare queste aree di un'infrastruttura in grado di portare la connettività almeno a 30 megabit per secondo. Questo è il cosiddetto piano che Infratel sta gestendo, ed è notizia di pochi giorni fa l'aggiudicazione del primo gruppo di regioni. A questo succederà un secondo gruppo e infine un terzo. Ricordiamo che Infratel è una società pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa delle reti pubbliche in Italia. In questo caso con questi bandi praticamente dà soldi agli operatori che vincono questi bandi per costruire questa rete, che rimarrà pubblica, giusto? Tradotto in sintesi. mette a disposizione dei soldi per realizzare un'infrastruttura che rimane di proprietà pubblica e che il realizzatore dovrà gestire per 24 anni. Al termine di questa concessione il pubblico tornerà nella piena disponibilità di questa infrastruttura. Quindi chiunque sia il vincitore di queste gare in realtà non si mette in saccoccia i soldi. Si costruisce la rete e la gestisce. Esatto, costruisce la rete di proprietà pubblica e per conto del pubblico la gestisce in modo completamente aperto e disponibile a tutti gli operatori senza discriminazione. La seconda fase del piano prevede la messa a disposizione di altre risorse economiche per agevolare la sottoscrizione di abbonamenti da parte della popolazione, di abbonamenti a connettività ultra veloce, perché ricordiamoci sempre che l'obiettivo al 2020 è fatto per un verso di realizzazione di infrastruttura, ma dall'altro di forme di agevolazione per portare almeno il 50% della popolazione a sottoscrivere un abbonamento. Certo, l'Unione Europea ci dice non solo dovete fare la rete, ma dovete fare in modo che la popolazione la adoperi questa rete. È così, esattamente. Quindi la seconda fase è fatta di strumenti che agevolino la sottoscrizione di abbonamenti. E la scelta fatta dal governo è quella di mettere a disposizione dei voucher sia nelle aree su cui si prevede la realizzazione di infrastruttura con questi bandi, ma anche per le aree dove invece sarà il privato a realizzare l'infrastruttura. Anche lì è importante che le risorse messe a disposizione con i voucher siano lo strumento che facilita l'utilizzo della ultraconnettività. Questa seconda parte deve ancora essere disegnata, non è ancora partita. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già comunicato ufficialmente alla Commissione Europea le modalità con cui verranno erogati i voucher. Sono state messe a disposizione dal CIPE delle risorse economiche per i voucher relativi alle aree a fallimento di mercato, quindi quelle collegate con i bandi, e dagli sconti che si realizzeranno sull'esito delle gare ci saranno a disposizione anche le risorse per le aree non a fallimento di mercato. E credo che questo sia la vera buona notizia dell'esito del primo gruppo di regioni, perché lo sconto presentato consente di avere a disposizione un bel gruzzoletto per fare questa seconda parte. Certo, quindi per il consumatore, per chi ci sta ascoltando, dovrà passare ancora forse un anno, due anni prima di poter utilizzare questi soldi per avere degli sconti sull'abbonamento alla, non so se chiamarla ancora ADSL o comunque al collegamento a internet. Allora, no, non sarei così pessimista, ovviamente non c'è una bacchetta magica, la realizzazione di un'infrastruttura impiegherà diversi anni e saranno centinaia i cantieri che contestualmente si apriranno in diverse parti d'Italia. Però non dimentichiamoci che nelle aree non a fallimento di mercato gli operatori già stanno lavorando e già stanno mettendo a disposizione degli utenti connettività ben oltre i 100 megabit per secondo. Quindi il mondo sta procedendo. Le ultime rilevazioni ci danno uno dei paesi con il tasso di incremento di adeguamento infrastrutturale più alto in Europa. È un bel risultato. Certo, sicuramente. C'è il rischio che ci siano delle aree di mezzo, delle terre di mezzo tra aree dove c'è mercato e quindi gli operatori fanno l'infrastruttura, tipicamente le città, tipicamente le cittadine o i grandi paesi, e le altre aree dove c'è fallimento di mercato, quindi dove ci sono risorse pubbliche, ecco, alcune terre di mezzo che sono poco appetibili per gli operatori ma non sono nemmeno a fallimento di mercato, e quindi magari uno lì rimarrà con una vecchia DSL un po' spompata. Allora, tipicamente ci potrebbero in teoria essere due terre di mezzo. La prima potrebbe essere rappresentata dalle aree industriali che non stanno nel territorio urbano e non sono nemmeno nelle aree a fallimento di mercato, stanno in una via di mezzo dove l'iniziativa pubblica è preclusa e dove la propensione del privato a investire è molto scarsa. Da questo punto di vista i voucher, così come sono stati progettati, prevedono un voucher un po' più grosso per le aziende, tale da essere attrattivo anche nei confronti degli operatori per adeguare l'infrastruttura. La seconda area di mezzo potrebbe essere rappresentata dai territori montani, per i quali comunque è allo studio l'utilizzo anche di altre soluzioni oltre quella dell'infrastrutturazione fisica, e qui si parla in particolare sia della messa a disposizione delle frequenze 3.6 e 3.8 e sia dell'utilizzo del satellite. Teniamo sempre presente che tutto questo scenario di evoluzione dell'infrastruttura è il presupposto per creare una rete molto capillare in grado di poter supportare lo sviluppo del 5G. Il 5G, ricordiamocelo, è l'evoluzione del mobile che richiederà un ridimensionamento significativo delle celle, e quindi vuol dire che una cella, anziché essere alimentata da una stazione radiobase delle dimensioni attuali, in realtà è calibrata su un raggio medio di 25-30 metri, il che vuol dire che per alimentarlo c'è bisogno di spillare banda da un punto di fibra. Tutto questo che stiamo facendo è il presupposto per creare questo, e questo andrà incontro anche all'esigenza di coprire in modo omogeneo il territorio. Certo, quindi possiamo dire che fra 3 anni la rete dovrebbe essere completata, o ci sono dei rischi che non lo sia, e nel caso non lo sia ci sono delle penali per gli operatori? Allora, le penali ci sono. Ci sono tutte, tutti i requisiti perché il concessionario adempia agli obblighi che sottoscrive. Non dimentichiamoci però di un collo di bottiglia oggettivo. Noi siamo un paese dove investimenti sulle infrastrutture non si fanno ormai da oltre 20 anni. I piani che entrano nella fase di implementazione richiedono tantissima forza da lavoro, grande capacità progettuale, e noi tutta questa forza lavoro non ce l'abbiamo. Quindi lo sforzo di sistema che dovrà essere messo in campo è quella di creare nuove professionalità, riprendere mano con le facoltà di ingegneria a questo mestiere dell'ingegnere delle telecomunicazioni. Beh, uno sforzo di sistema notevole. Io credo che ce la faremo, però ecco, prendiamo consapevolezza che la realtà la si cambia con un grande sforzo da parte di tutti, degli operatori, del pubblico, che è impegnativo. Certo. Visto che si parla sempre di fibra ottica, tutti dicono mettiamo la fibra, in realtà questa fibra in alcuni casi arriva all'armadio di strada, in alcuni casi arriva fino alla casa, fino all'appartamento, infatti si dice fiber to the home. Per quanto riguarda la rete pubblica, di che tipo di infrastruttura stiamo parlando? Allora, premesso che io spero che l'autorità per telecomunicazioni, ma anche l'antitrust, costringano gli operatori ad utilizzare un linguaggio oggettivo che sia completamente trasparente, perché vedo nei messaggi pubblicitari ultrafibra, fibra, cioè varie terminologie che non raccontano la realtà. Ci sono anche ingannevoli, secondo me. Questo lo dovrà dire l'autorità. Bisognerà comunque ancorare a dei parametri oggettivi l'utilizzo di termini anche ai fini commerciali. Chiarito questo, è evidente che la soluzione più performante è portare la fibra fino a casa. Ma, come ho detto prima, siccome noi in realtà stiamo creando la piattaforma su cui si innesterà l'evoluzione del mobile, la fibra a casa sicuramente è un punto di riferimento per lo sviluppo infrastrutturale urbano. ma nelle aree non densamente popolate l'importante è che la fibra arrivi ad alimentare la cella del 5G. Per un motivo molto semplice, in realtà anche se la fibra arriva a casa, l'utilizzo è mobile. Ormai il punto di accesso a casa alimenta telefonini, computer, televisioni, tutte quante wireless. L'utilizzo della connettività è sempre mobile, non è ormai è solo residuale che è fisso, cioè con il filo di fibra che arriva fino al computer. Certo, però un conto è se ce l'ho io a casa la connettività e alimento i miei terminali da casa mia, un conto è se mi devo agganciare alla rete dell'operatore mobile. Comunque, diciamo, il risultato forse è lo stesso, ma anche sotto il profilo commerciale e sotto il profilo dei soldi che io devo pagare d'abbonamento è un po' diverso. Il 5G sarà l'evoluzione del sistema attuale, è vero, cioè se uno vede il mobile come lo vede oggi, già il 4G che non è ovunque disponibile è già una bella capacità di connettività, ma il 5G sarà il salto di paradigma vero, per cui una nanocella che è di 25 metri è in grado di mettere in connessione decine di device a velocità oltre il giga, cioè stiamo ragionando su una scala incomparabile rispetto all'infrastruttura oggi esistente e il mobile come oggi noi lo usiamo e lo percepiamo. Beh, a proposito dei bandi, va detto che il prossimo giro di boa, chiamiamolo così, è il 20 febbraio. E se tutto va bene, se non ci sono degli impicci, i lavori dovrebbero iniziare nel giro veramente di poche settimane, pochi mesi massimo. E ovviamente la conclusione dei lavori sarà graduale da qui al 2020, diciamo 2021-2022, ecco, grosso modo. Però nelle zone a fallimento di mercato questa è la situazione, nelle zone invece dove c'è mercato gli operatori si stanno muovendo. Ci sono effettivamente delle evoluzioni della rete, ne abbiamo parlato anche nel 2024, sicuramente questo sarà un tema di cui torneremo a parlare. Anzi, vi anticipo che finalmente riusciremo a breve anche ad avere un'intervista con Open Fiber, cioè Enel Open Fiber, comunque ormai questa società si chiama Open Fiber, per farci raccontare come sarà questa rete, che sarà una rete passiva a disposizione di tutti gli altri operatori. Deve essere così, perché una rete neutrale su cui tutti gli altri operatori poi faranno servizi. Dunque, adesso ci occupiamo di quanto la tecnologia è diventata complicata. Alcune considerazioni molto interessanti che vogliamo offrire assieme a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Se in questi ultimi mesi una persona ti domanda dammi un consiglio per comprare un televisore, il tuo consiglio diventa sempre più complicato o si riduce a compra quello o compra quell'altro. Sì, normalmente chiedo quanto tempo hai, esatto. Poi guardo anche la mia agenda e vedo quanto tempo ho, sì, sì. E dopodiché decido come comportarmi. Sì, è sempre più complicato, questo non perché effettivamente debba essere così, non è assolutamente giusto, ma il contesto tecnologico e anche normativo e anche, se vogliamo, pure il contesto fatemi dire micropolitico attorno al mondo televisivo, tutto quello che sta succedendo, le possibili evoluzioni costringono il consumatore a guardare molto avanti per riuscire ad identificare un prodotto che sia sufficientemente longevo, quindi che funzioni e funzioni bene ovviamente, ma che continui a svolgere le sue funzioni e sia sempre aggiornato rispetto a quello che succede anche nelle prossime stagioni, gli anni successivi, sì. Contrariamente agli smartphone che hanno ormai un'emivita molto breve, 18 mesi, 12 mesi in alcuni casi, in cui è già in qualche modo scontata e prevista una sostituzione periodica, e il televisore ancora no. Il sì. Televisore non è un bene usa e getta, è un bene semidurevole, ha una durata media di 8 anni, ma anche se ci sono dei televisori che costano meno di uno smartphone ormai. Sì, ormai ci sono televisori però... che costano meno di uno smartphone, ma la durata media è quella. E non solo, quando io dico 8 anni, dico tu fra 8 anni il televisore che stai comprando oggi l'avrai cambiato, mediamente ovviamente, certo, statisticamente, e l'interlocutore normalmente mi dice no, non se ne parla neanche, compro questo per i prossimi 15-20 anni, sì, cioè sì, non lo cambio entro 8 anni. Invece, proprio perché 8 anni è la media, c'è qualcuno che lo cambia dopo 15 anni, ma quindi c'è qualcuno che anche dopo 3-4 anni valuta di cambiare il TV perché non fa più qualcosa che dovrebbe fare. Abbiamo assistito negli anni che sono andati, diciamo, fino al 2012, dal 2008 al 2012, allo switch off dalle trasmissioni analogiche al digitale terrestre. Lì c'è stato un grande ricambio, perché ovviamente se no avere il decoder esterno è una cosa scomoda, però era tutto sommato una scelta semplice, cioè, bisognava avere il tuner digitale, c'erano due modalità, lo zapper che faceva soltanto cambiare canale e il TV invece interattivo che aveva anche l'MHP, quindi la possibilità di caricare delle app, ma tutto c'erano sommato, delle insomma, certificazioni, dei bollini, bollino grigio, bollino blu, insomma a seconda di quello che si pigliava si poteva scegliere in negozio. Oggi scegliere un TV è diventata una punizione, mi viene quasi da dire, una punizione eccessiva per il povero consumatore che di fatto sta spendendo dei soldi, dovrebbe spenderli come si vede nei vari anche corsi di tecniche di vendita, l'acquisto dovrebbe essere un momento gioioso per la famiglia e invece è un momento per il TV prettamente ansiogeno. Servono delle competenze che sono oramai complicatissime per fare una scelta adeguata. E la cosa incredibile è che non è una scelta che fanno soltanto i super appassionati oppure una nicchia di utenti particolari. In Italia ogni anno vengono venduti tra i 4 milioni e mezzo e 5 milioni di televisori. Cioè degli elettrodomestici più venduti. In assoluto il più venduto. Il più venduto. Tra gli elettrodomestici grandi, diciamo così, cioè rispetto alla lavatrice. Sì, frigoriferi. Sì, sì, se ne vendono intorno a 1,5 milioni. Di frigoriferi. Sì, i frigoriferi di lavatrici. Sì, sì. Quindi... è un mercato incredibile che praticamente riguarda tutti ed è impensabile e assolutamente punitivo, mi permetto di dire, sperare che praticamente tutte le famiglie italiane coinvolte possano avere quelle competenze che sono diventate molto molto molto approfondite, sì, per poter fare una scelta consapevole. Quindi cosa succede? La scelta mediamente è inconsapevole. E come tutte le scelte inconsapevoli, a volte ci si becca e a volte no. Certo, questo effettivamente è un problema. Probabilmente nel caso dei televisori, soprattutto negli ultimi mesi per le condizioni che tu hai detto, che sono tecnologiche, regolamentari, di mercato, poi effettivamente le cose si muovono molto velocemente su tutti questi fronti, però diciamo probabilmente per il mondo dei televisori siamo arrivati all'eccesso di questa complicazione, di questa punizione nei confronti dei consumatori, ma i ragionamenti che stiamo facendo valgono anche per altri ambiti tecnologici. In molti ambiti le cose sono diventate più complicate, nonostante i produttori dicano o ci abbiano detto negli ultimi anni che le cose si sono semplificate, e bisogna avere una competenza specifica, bisogna studiare, bisogna perdere un sacco di tempo per capire, oppure ci sono delle alternative che abbiamo pensato. No, allora sempre più diciamo queste competenze richieste sono elevate, non perché non siano stati fatti dei passi avanti verso una semplificazione, questo bisogna riconoscerlo ai produttori. Banalmente le interfacce, con l'interfaccia touch, la possibilità di comandare molti apparecchi tramite lo smartphone, quindi un'interfaccia che già utilizziamo tutti i giorni, la grafica che è entrata anche banalmente nei menu dei TV, se vogliamo parlare, certo, di TV, certo, cioè, certo. Tante cose si sono semplificate. Il problema è che la possibilità di interconnessione, la versatilità di questi apparecchi digitali che prima facevano vedere Rai 1, Rai 2, Rai 3 e adesso fanno una miriade di cose sempre più complicata, cioè sempre più varia, quindi offrono sempre più possibilità, ma la versatilità porta con sé un aumento della complessità. Quindi mentre sono state semplificate molte cose, la complessità è andata comunque strutturalmente aumentando e questo inseguimento è ancora in atto. Quindi le competenze richieste sono elevate, tanto che verrebbe quasi da dire, si usa parlare di personal shopper, per esempio, per andare a fare gli acquisti di moda, perché sa accordare scegliere bene una scarpa con un pantalone. Ecco, mi verrebbe da dire, perché in tecnologia non esiste il personal shopper? Anzi, probabilmente in questo momento storico specifico sono in molti che vorrebbero avere un personal shopper. Quindi una persona competente che ti consiglia, che ti consigli vende, nell'interesse chiaramente del consumatore, sì, che ti consigli in maniera adeguata, senza necessariamente costringerti a studiare un sacco di tecnologie. Si potrebbe dire, ma i negozi non sono lì apposta, cioè i commessi nei negozi non sono lì apposta per fare di fatto questo ruolo di consulenza. È verissimo, però il mercato elettronico di consumo è un mercato che tendenzialmente è diventato molto povero, cioè è un mercato in costante deflazione. I prezzi, l'abbiamo visto, sono in costante discesa. Con quello a cui si compra oggi un 55 pollici di ottima qualità, con gli ingressi digitali, smart TV e tutto quello che si vuole, 4K, 15 anni fa si comprava un 32 pollici a tubo catodico e forse avanzano ancora dei soldi. Quindi sì, sì, il prezzi, le prestazioni sono salite, la qualità è salita e i prezzi sono crollati. In questo contesto è chiaro che su un mercato che ha bassissimi margini come quello della tecnologia, resta anche poco spazio per i rivenditori per avere tanto personale. Quindi io consiglio sempre di andare a comprare, se si vuole comprare bene, un prodotto di tecnologia il mercoledì mattina. E dice uno, sì, ma io sono al lavoro, non posso, cioè, però di sabato pomeriggio non si può sperare che il negozio, per quanto sì, abbia personale potenziato, possa reggere un impatto che vede in 4 ore del sabato svilupparsi il 30% del fatturato. Cioè è quasi impossibile. Poi uno ti potrebbe contestare e dire, no, ma compralo online così non c'è la fila, con tutti però Vabbè, però comprare problemi online va benissimo, devi sapere già che cosa vuoi. Esatto. Sì, sì. Allora, comunque puoi studiare, però diciamo in alcuni casi, e nel televisore forse stiamo parlando della massima espressione, devi vedere. Sì, ma qualcuno dice semplicemente io voglio vedere la TV, sì, cioè sì, mettetemi in condizione di vedere la TV oggi e domani, non ho voglia di impazzire, certo, perché adesso c'è da impazzire ovviamente. A proposito di personal shopper e dei tra virgolette consulenti, che sono poi i commessi che troviamo nei punti vendita, e questo vale anche per l'online in forme diverse, va detto che sì, ti possono dare dei buoni consigli, ma a volte ti guidano anche su scelte che sono indotte dalla catena o dal brand, che magari uno che magari vuole vendere un tal prodotto, una tal gamma, una tal marca. Abbiamo fatto, mentre chiacchieravamo in questi giorni proprio su questo tema, un paragone con quello che sta succedendo nel mondo finanziario. Così come si stanno sviluppando le figure dei consulenti finanziari indipendenti, che non sono legati alla banca ma che fanno il puro interesse del consumatore e del risparmiatore, beh, non è escluso che possa nascere la figura del consulente indipendente anche di tecnologia, che poi non so come possa essere pagato. Perché gli italiani non vogliono pagare i servizi, questo è un dato di fatto, esatto, almeno gli utenti finali. Però credo che se il consiglio sia veramente valido e indipendente, e l'unico vincolo sia quello, quando scegliamo il prodotto compriamolo a prezzi di mercato da quel rivenditore, il rivenditore potrebbe avere il vantaggio di avere una serie di personal shopper affiliati, diciamo così. Mm-hmm. Quindi dividere in due per certi aspetti la fase di vendita, quella un pochino più tecnica e specifica con dei personal shopper indipendenti, e quella un pochino più logistica e amministrativa, ovviamente con dei commessi e dei dipendenti. Diciamo che ancora la quadra per la distribuzione, il retail di elettronica di consumo, non si è trovato, non si è capito quale sarà il paradigma futuro. Quello che so per certo in questo momento, che con un contesto tecnologico che si complica, l'online non andrà oltre la percentuale degli acquisti consapevoli, o degli acquirenti consapevoli, quindi di quelli, certo, che sono, certo, già preparati, oppure quelli che acquistano a caso. E quelli possono comprare online, qualsiasi cosa, però poi, certo, alla fine, dopodiché, potrebbero fare la scelta giusta, magari con un colpo di fortuna, oppure fare la scelta assolutamente sbagliata. Certo, certo. Quindi poi noi abbiamo utilizzato come esempio il mondo dei televisori, ma pensate ad esempio in quella prateria vastissima che dovrà essere conquistata nei prossimi anni della smart home, la casa, visto che i consulenti che dovrebbero essere gli elettricisti non si stanno evolvendo molto rapidamente su questo fronte e non ci stanno capendo se non nulla o molto poco, tranne alcuni casi, alcune rare eccezioni. Però volevo chiederti, Gianfranco, ma facciamo alcuni esempi di quanto complicato, perché uno dice, vabbè, ma complicato cosa vuol dire? Tu comincerai a sparare un sacco di sigle che oggi fanno parte del mondo dei televisori. Eh sì, che non sono, attenzione, tecnicismi esoterici, cioè lo sono in effetti, ma non dovrebbero esserlo, perché sono cose che sono caratteristiche che riguardano praticamente tutti i TV in commercio, buona parte di questi, comunque quelli a grande schermo, diciamo, sì, così. Sì. Allora, al di là della distinzione Full HD e 4K che oramai dobbiamo, siamo costretti a dare per scontati o anche non farla più, visto che praticamente tutti i TV sopra una certa dimensione sono già a risoluzione 4K. C'è il tema dello switch off, possibile futuro switch off, quindi passaggio a una tecnica trasmissiva diversa e con dei codec differenti. È scattato dal 1 gennaio un obbligo di vendere soltanto TV che abbiano il tuner DVB-T2, quindi non il DVB-T di oggi, ma una sua evoluzione. L'evoluzione del digitale terrestre. Del digitale terrestre. Sì. E la compatibilità con il codec HEVC, che è una codifica più evoluta di MPEG 2 o MPEG 4 che vengono usati adesso sul digitale terrestre. Sì. Questo obbligo è scattato, cioè non si possono vendere più i TV che non siano compatibili con queste due cose, ovvero si possono vendere ancora, perché poi questo obbligo, di cui si sapeva già la natura e la decorrenza, è scattato, però è stato specificato e ma è in stato parte. Parzialmente derogato da un'interpretazione, sì. Per cui si è detto si possono vendere per un periodo limitato che si presume essere 6 mesi, quindi diciamo fino a giugno di quest'anno, però vediamo come evolverà, anche i TV ancora vecchi, quelli non compatibili con questi standard, a patto che vengano venduti in bundle, quindi congiuntamente a un decoder esterno che abbia quelle caratteristiche specifiche, quindi DVB-T2 HEVC. Perfetto. Perché ovviamente non è che il TV sia obsoleto di per se stesso, è che da solo non potrebbe ricevere le eventuali future trasmissioni. Ripetiamo, eventuali, non è detto neanche che arrivino mai, ma giustamente la legge cerca di far sì che il parco installato sia adeguato. Ecco, questo non è stato chiarito, non è chiarito, non ha avuto, ne abbiamo parlato qui, ne abbiamo parlato su D-Day, ma non è che la stampa nazionale abbia dato grandi spiegazioni, non è che nei negozi si scopra molto bene questo aspetto, quindi il primo discorso è, se si compra un TV in questo momento bisogna pretendere che sia un TV DVB-T2 HEVC, oppure si può accettare, ma io consiglio di accettarlo anche con se c'è uno sconto. Un TV vecchio tipo, diciamo così, a patto che venga dato categoricamente e senza un sovrapprezzo, cioè nel prezzo che viene indicato nel TV deve essere dato anche un decoder esterno. Attenzione, chi si porta a casa questo TV col decoder esterno, nel caso in cui ci fosse un passaggio a queste nuove trasmissioni televisive, si parla del 2022, però nel caso in cui ci fosse questo passaggio, bene, dovrà attaccare il decoder esterno, quindi avere due telecomandi, un decoder esterno, un ingresso occupato. Sì, sì, per adesso può non farlo. Adesso può anche metterlo in cantina, il decoder nuovo, praticamente non serve. Però è giusto che gli venga riconosciuto. Chiaro. E questa è una prima complicazione di cui non tutti sono informati, anzi direi che chi è in negozio in questo momento e sta acquistando un TV difficile, in questi che anni, difficile che lo sappia. Sì, sì, sì. Poi ci sono altre sigle. Poi in realtà, al di là della risoluzione 4K, la più grande innovazione per la qualità di visione alla quale stiamo andando incontro si chiama HDR, quindi gamma dinamica alta, High Dynamic Range. Questa tecnologia HDR permette di andare oltre le codifiche video che abbiamo visto fino ad oggi, che sono un po' limitate in gamma dinamica, per cui l'esempio classico è, ma lo vediamo anche con le fotografie, no? Se io faccio una foto in interni, contro luce, verso una finestra, o espongo correttamente l'esterno, quindi vedo bene fuori, ma la stanza sarà completamente buia, oppure vedo bene dentro, Viceversa, il vetro sarà completamente bianco, bruciato. Sì, sì. Ecco, noi a occhio nudo invece vediamo bene. Ecco, perché abbiamo una gamma dinamica. Abbiamo molto una gamma dinamica più alta. Sì. Allora, adesso ci sono degli standard sia di ripresa sia di visualizzazione sui TV che permettono di espandere questa gamma dinamica e quindi di vedere contemporaneamente bene dentro e fuori la stanza, tanto sì, per intendersi. Sì, sì. Quindi avere un grandissimo dettaglio sugli scuri, che normalmente si chiudevano e diventavano neri, senza perdere la luminosità e la brillantezza dei chiarissimi. Ecco, questo perché i TV sono diventati nettamente superiori a quelli che erano una volta, hanno delle prestazioni sia in termini di luminosità che di dettaglio sugli scuri molto più alti. Benissimo, i contenuti HDR si vedono meravigliosamente, stanno arrivando, già ci sono, per esempio su Netflix, tanto per intenderci, sono dei contenuti HDR che possono essere visti, bisogna avere il TV che sia HDR compatibile, ma non c'è uno standard solo, c'è l'HDR10 che è compatibile con la stragrande maggioranza dei dischi e con le trasmissioni di Netflix e altre cose, però c'è anche il Dolby Vision. Dopodiché cosa succede? Tre mesi fa, DVB, che è il consorzio che unisce tutti i broadcaster europei, tanto per intenderci, ha stabilito finalmente come saranno le trasmissioni HDR via satellite, via digitale terrestre. Saranno secondo un altro standard, HLG. Fantastico. Hybrid Log Gamma, che è uno standard della BBC, peraltro bello, semplice, eccetera, eccetera. Peccato che non tutti i TV sono compatibili. Alcuni TV del 2016... sono stati aggiornati, i Samsung in questi giorni, altri dei Sony, LG verranno aggiornati, ma si stanno aspettando certezze su quali saranno i modelli effettivamente aggiornati. 2015 praticamente niente, quindi chi ha comprato un TV nel 2015 non avrà questo standard e 2016 sì, tutti dovrebbero averlo, ma probabilmente con un aggiornamento firmware che arriverà nei prossimi mesi. Sì, che poi non farà quasi nessuno, perché incrociate le dita, no vabbè, ma poi si fa, no? Sì, però ecco. Dopodiché si scopre che le trasmissioni in 4K che sono già state fatte, che non erano ancora HDR perché non c'era ancora non c'era definito lo standard, beh, non tutti i possessori di TV 4K sono riusciti a vederle. Schermo nero, ma dice, ma come mai ho comprato il TV 4K? Eh no, perché bisogna avere 4K a 50 fotogrammi al secondo, progressivi, mentre i primi TV 4K andavano soltanto a 30 fotogrammi al secondo, quindi questi non riescono a vedere le trasmissioni. Io sto facendo cenno di fermarsi. Lo so, ma ancora ne arriveranno, perché adesso si è capito che bisogna avere la gestione dei TV, anche quelli più piccoli, a 10 bit. Se no, probabilmente... allora, c'è la follia. Tutte queste innovazioni non sono state pacchettizzate, come dire, in livelli. Bisognava avere il TV di livello 1, il TV di livello 2, il TV di livello 3. Sì, tante tecnologie che sono arrivate una fastellata all'altra, senza chiarezze. Da sola, dico, va bene che non bisogna fare trust, quindi non bisogna fare accordi tra le società, perché dopodiché interviene l'antitrust, eccetera, eccetera. Ma delle volte un bell'accordone, fatemi dire, ma anche un po' in violazione della legge, ma che definisce uno standard e quello è. Ma per il consumatore semplifica la vita in maniera drastica, perché in questo momento, francamente, bisogna fare un'ipoteca sul futuro, oppure, e qui diventa la scelta abbastanza, forse il consiglio che si può dare, anche se è strano dirlo, è andare su marchi molto noti e, se possibile, su prodotti di grande successo commerciale. Che sono, cioè, quelli tipo il più venduto, una roba del genere. I più venduti sono quelli che hanno le maggiori chance di subire tutti gli aggiornamenti del caso, ovviamente seguendo un po' il contesto tecnologico. E anche, lo ripeto, lo ripetiamo sempre, lo diciamo, guardando la qualità dell'immagine, che quella invece è quella che è e non si aggiorna. Certo che è. Poi ha un giudice che è il nostro occhio, la nostra sensibilità. La qualità dell'immagine, la qualità del telecomando e dell'interfaccia, che sono assolutamente vitali, che sono cose, qualità dell'immagine magari sì, ma la qualità per esempio del telecomando e dell'interfaccia è una cosa che al negozio non viene mai guardata. Certo. E anche qui un po' di esperienza del famoso personal shopper di cui parlavamo prima può essere vitale, perché dice, guarda che con quel TV però è di un uso molto complesso, o il telecomando non è granché, probabilmente ti trovi meglio con questo. Sì. In negozio spesso il telecomando neanche si può vedere, E quindi di cosa stiamo parlando? È un mondo complesso, purtroppo un mondo complesso, per fortuna, perché 2024 serve secondo me fino al 2054. Dovremmo cercare un nuovo nome, non so. Sì. O mantenere quello fregandosene di tutto, oppure chiamarci 3024 e abbiamo risolto i problemi per un po' di tempo. Sì, ci penseranno gli altri. Esatto, oppure non so, oppure fate le vostre proposte e possiamo anche valutarle. Gianfranco, grazie. Per fortuna, direi, io non devo comprare un televisore, quindi no, ma adesso non vorrei neanche aver creato uno stato d'ansia. Però oggettivamente sta diventando più difficile e quindi bisogna documentarsi un po' di certo, più. Ma questo, bisogna documentarsi un po' di più. Io se vuol fare una scelta. Apprezzo questo ragionamento che tu hai fatto, che ci hai proposto, perché poi la stessa cosa, con le dovute differenze, sta succedendo. Ahimè, nelle aziende. Le aziende sono di fronte a una trasformazione tecnologica dirompente e non è una colpa degli imprenditori non capirci nulla, perché tutte le cose stanno avvenendo molto, molto rapidamente, molto velocemente. Infatti io dico sempre, non l'ho mai chiamato personal shopper, perché in quel caso non è, però ci vorrebbe una persona o un gruppetto di persone che possibilmente ci capiscano e che studino le tecnologie da applicare in azienda. Ma sì, perché c'è in realtà una grossa differenza, questo vale per tante cose, tra le competenze richieste a chi deve fare la scelta, per esempio, di acquisto, e le competenze che normalmente deve avere l'utente, cioè chi deve usare certo, poi e vedere il televisore. Ha un'esigenza, vedere bene, sentire bene e che funzioni sempre. Non è interessato, giustamente a mio avviso, al fatto che la trasmissione venga fatta a 50 frame al secondo o a 30 frame al secondo. Deve funzionare e qualcuno deve aiutarlo in questa scelta. La stessa cosa vale anche in mondo aziendale, per esempio lo dico anche spesso questo, sui un file di Excel, banalmente. Quindi quello che riguarda parti del lavoro con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Ci vuole una certa competenza, una certa fluidità nell'utilizzo di Excel per progettare un foglio di Excel ben fatto. E poi ci vogliono competenze molto basse per usarlo, quindi per riempire i dati una volta che le formule sono state posizionate, eccetera, eccetera. Ecco, c'è una differenza di competenza. Ci vuole chi progetti il foglio d'Excel e poi chi lo usi. Allo stesso modo in azienda ci vorrebbero delle figure terze competenti, non col conflitto di interesse, cioè non chi vende, ma delle figure che tutelino totalmente gli interessi dell'azienda, che aiutino solo nella scelta delle tecnologie, e dopodiché l'azienda, se si è fidata dei professionisti giusti, a quel punto segue un percorso che è abbastanza prova di futuro. E la stessa cosa anche chiaramente per la tecnologia in casa. Oggi questo ruolo lo svolge l'amico competente, ma gli amici competenti in questo contesto sono, ahimè, sempre meno. E sono molto indaffarati, diciamo così, perché ricevono molte richieste. Esattamente. Gianfranco, grazie per essere stato con noi. A presto. Buon grazie lavoro. Mille. A proposito di aziende, adesso parliamo di fatture elettroniche, fatture digitali. Allora, innanzitutto una cosa che va capita e compresa è che si è avviato oramai un processo che dopo l'obbligo della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione gradualmente comincia ad allargarsi anche alla fatturazione tra aziende. Non è ancora obbligatoria la fatturazione digitale tra aziende, ma potrebbe diventarlo presto, nel giro di qualche anno, e comunque oramai stiamo parlando di un processo di trasformazione digitale inevitabile. Quindi prima ci si capisce qualche cosa, prima ci si butta, prima si comincia a fare fatture elettroniche, prima si comprendono tante cose. E poi anche perché visto che parliamo sempre, molti all'interno in ambito industriale parlano di digital transformation, di trasformazione delle aziende, qui stiamo parlando di un tassello, di un piccolo mattoncino che va messo a sistema assieme ad altri mattoni per trasformare in modo digitale l'azienda. per fare tante cose, per diventare più competitivi, per risparmiare soldi, per fare le stesse cose in modo diverso o fare anche cose nuove per trasformare il proprio business. Stiamo parlando di tanti ingredienti che servono proprio per fare la trasformazione. Allora, siamo sicuramente molto indietro, molte aziende sono lente al cambiamento. Io ho un amico che fa il commercialista che in questi giorni abbiamo discusso di fatturazione elettronica e mi diceva: pensa che noi abbiamo dei clienti che non hanno nemmeno il computer. Certo, nei confronti di questi di queste piccole aziende il problema è ancora più grande, però dobbiamo cercare di aiutare tutti ad andare verso la stessa direzione. Allora, questa settimana Team System ha presentato una nuova piattaforma che si chiama Agio, che serve per agevolare l'entrata in questo settore delle aziende che vogliono fare fatturazione elettronica tra privati. Dicevo, non è ancora obbligatorio, anche se ci sono dei vantaggi nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, molto interessanti, e quindi sicuramente molte aziende che saltano sul carro della fatturazione digitale possono approfittare di questi vantaggi. Ma stiamo parlando sostanzialmente poi di automatizzare certi processi. Pensate se invece di esserci persone che si mettono lì a compilare fatture, queste persone vengono spostate a fare altro, magari attività a valore aggiunto, molto più complesse, molto più interessanti per gli stessi lavoratori. Comunque, di questo fenomeno, di questa trasformazione, ho parlato con Enrico Causero, che è responsabile New Business and Cloud di Team System. Abbiamo parlato di questa nuova piattaforma, ma anche di che cosa significa poi in realtà trasformare l'azienda anche attraverso la fatturazione digitale. Intendiamo come sia una porta verso la trasformazione digitale delle imprese, che è fondamentale ed è ormai necessaria per tutto il sistema paese, oltre che per la propria azienda, per tutto il nostro paese. Sì, Agio è una piattaforma per la gestione, per l'interscambio di fatture elettroniche, quindi è una piattaforma in cloud che ha l'obiettivo di mettere in di connettere, diciamo, i diversi attori coinvolti nella filiera della fatturazione elettronica, quindi fornitori, clienti, commercialisti, pubblica amministrazione, piuttosto che terze parti, banche o qualsiasi altro ente che poi può fruire dei servizi di fatturazione elettronica, i famosi servizi a valore aggiunto legati alla fatturazione elettronica, quali la conservazione sostitutiva, ad esempio, la firma digitale, piuttosto che i pagamenti. Quindi se uno deve fare fatture elettroniche, con questa piattaforma risolve tutti i problemi o quasi tutti i problemi? Sì, io distinguerei due casi. Il caso in cui ci sia un'azienda che ha un gestionale, che è vero nella maggior parte delle medie imprese, grandi imprese sicuramente tutte, e alcune piccole imprese, e in questo caso l'azienda ha un gestionale. Il gestionale, grazie al fatto che questa piattaforma Agio è una piattaforma aperta, tecnicamente con delle API, può richiedere quindi al suo fornitore di software, Team System o meno, di connettersi alla piattaforma, e in maniera molto semplice il proprio gestionale sarà connesso alla piattaforma e quindi da quel momento in poi può inviare o ricevere fatture elettroniche per tutti i suoi clienti o fornitori. Questo è il primo caso. Il secondo caso, che in Italia però rappresenta il 90%, sono le microimprese. Le microimprese ad oggi non sempre sono digitalizzate, ancora oggi lavorano con strumenti basilari, fanno la fattura o su carta o con un semplice PDF fondamentalmente. Quindi in questo caso qua Agio come viene a supporto di queste microimprese? Offrendo una semplice pagina web accessibile da qualsiasi dispositivo, in cui la microimpresa può facilmente compilare i campi basici di una fattura e quindi inviare la fattura, e a quel punto ha risolto il problema di inviare una fattura elettronica. Questo vale per le fatture verso la pubblica amministrazione, e sappiamo che già in questo caso sono obbligatorie, ma vale anche, ed è uno dei motivi per cui lanciate questa piattaforma, tra imprese. Non c'è ancora un obbligo, ma ci sono una serie di vantaggi di carattere normativo fiscale che l'Agenzia delle Entrate ha spiegato molto molto bene. In questo caso stiamo parlando di un'attività ancora marginale, cioè fatto 100 il numero di fatture che girano in Italia, l'Osservatorio del Politecnico di Milano ci dice che solo il 6% delle fatture sono digitali, però siamo all'inizio di un processo. Certo, io credo che sia un processo anche abbastanza inesorabile, e il fatto che abbia cominciato la PA penso sia corretto e abbia dato questo impulso. Infatti noi abbiamo cominciato a lavorare sulla piattaforma di fatturazione elettronica B2B già in anticipo, quasi un anno fa, perché ovviamente il passaggio successivo all'obbligo della PA era intanto il fatto che si potesse mandare una fattura con validità fiscale legale tra imprese, e questo è vero dal 9 gennaio 2017, quindi appena siamo tornati tutte dalle ferie di Natale, e si può mandare, spedire una fattura e ricevere una fattura in formato elettronico anche tra imprese. Quindi questa è assolutamente una cosa che è appena partita, però devo dire che mi aspetto che il trend sia in forte crescita, perché secondo me ci sono due grossi vantaggi. Un primo vantaggio è un vantaggio operativo: l'azienda migliora la sua profittabilità, migliora la sua operatività, velocizza i propri processi indipendentemente da qualsiasi beneficio fiscale. Quindi il primo vantaggio è: la fattura elettronica aiuta a lavorare meglio la mia azienda, e questo è un ottimo motivo già per cominciare ad utilizzare la fattura elettronica. Il secondo vantaggio è che, come giustamente detto, cominciano ad esserci degli incentivi fiscali interessanti, gli incentivi fiscali che vanno incontro a quelle imprese che magari si vedono il vantaggio operativo però sono ancora nel dubbio. Con un incentivo fiscale sicuramente alcune imprese decideranno di fare il passo. Detto questo, il passo verso la fatturazione elettronica secondo me non sarà mai un passo 0-100, non sarà mai un passo acceso-spento. Se oggi non ho la fattura elettronica, non è che domani ho tutte le mie fatture elettroniche. Sarà un passaggio graduale, probabilmente a stadi. I nostri primi clienti che utilizzano la fattura elettronica non hanno digitalizzato tutta la loro filiera, hanno cominciato a richiedere ad alcuni loro fornitori la fattura elettronica, quindi avranno un sistema di gestione misto. Sistema di gestione misto che secondo me impiegherà diversi mesi, forse qualche anno, a essere completato, ma questo è normale. Se ci pensate, anche la PA ha intrapreso un processo misto. La prima sessione di dematerializzazione delle fatture è avvenuta a luglio del 2014 con un gruppo di PA, il secondo gruppo, quindi scaglionato, è arrivato a marzo del 2015. Questo ci insegna che il processo di dematerializzazione non deve spaventare un'azienda, non è una cosa che avviene tutto in un giorno, è un processo di alcuni mesi, normale. Allora, altri vantaggi rispetto a quelli che hai detto prima, e soprattutto che tipo di ulteriori trasformazioni abilita la fatturazione elettronica? Perché io, che non sono un uomo d'impresa, però immagino nei miei sogni, non dico frequenti, notturni, però immagino nei miei sogni che le aziende siano tutte digitali, automatizzate, che molte cose vengano affidate alle macchine e gli uomini si occupino di cose a maggior valore aggiunto. Sì, due domande quindi, direi. Altri vantaggi? Io cito sempre una cosa che secondo me è importante: parliamo sempre di risparmio di tempo legato, no, alla registrazione automatica di fatture elettroniche, che è verissimo, effettivamente lo vediamo, no? Dai tempi medi di registrazione di una fattura fatta manualmente a una registrazione automatica è un abisso, no? Stiamo parlando di 5 secondi versus un paio di minuti, quindi moltiplicato per il numero di fatture è evidente. Poi è anche assurdo che ci siano delle persone che si stiano lì per perdere tempo a compilare delle fatture, cioè una roba medioevale. È così. È chiaro che l'altro grosso vantaggio che noi vediamo è la pulizia e la riduzione del numero di errori. Gran parte oggi delle attività spesso sono legate oggi a rilavorazioni. Ho sbagliato la fattura, ho registrato male la fattura, è normale, è umano, no? Quando ci sono diverse attività manuali, sbagliare la compilazione di una fattura piuttosto che registrarla male è normalissimo. E siccome è un'attività molto meccanica, affidarsi a una macchina intelligente nella maggior parte dei casi riduce un sacco gli errori, riduce un sacco quindi l'operatività dell'impresa, ma ad esempio dei commercialisti, che spesso sono gli attori che in questo meccanismo si occupano di rivedere le fatture, aggiustarle, ricontattare l'azienda, eccetera. Quindi c'è un meccanismo virtuoso che, al di là di far risparmiare tempo, alla fine fa risparmiare errori e rilavorazioni, che poi alla fine torniamo sempre nel tempo, no? Perché alla fine l'errore causa una rilavorazione che è tempo perso a basso valore aggiunto. E la seconda domanda si riferiva a quali sono i valori, quali sono lo scenario futuro da una volta che si è dematerializzata la fattura. La fattura è un elemento cardine, un mattoncino di una, se vogliamo, di una piramide di servizi ben più importante, perché se ci pensate, legate alla fattura ci sono numerosi servizi a valore aggiunto. Il pagamento di questa fattura può essere automatizzato, la conservazione a norma di questa fattura è un ulteriore servizio. Pensate oggi quanti faldoni stanno ancora negli uffici di fatture registrate nel passato. ma possiamo andare su servizi bancari più elaborati, il factoring, quindi l'anticipo fatture, no? Tipico servizio che ad oggi funziona ancora con processi spesso slegati da processi elettronici, quindi posso offrire ai miei clienti il fatto di dire: dematerializza la fattura, manda l'influsso elettronico e magari con certi benefici posso anticipare le fatture con uno sconto più vantaggioso per te. Quindi se dai servizi bancari ai servizi di conservazione e di pagamento, questi sono i veri vantaggi che poi si possono costruire, e infatti Agio è una piattaforma che sta già predisponendo l'ingresso di servizi a valore aggiunto. Adesso siamo partiti con la fattura e la conservazione perché è un po', se vogliamo, il minimo sindacale per partire, però aggancieremo sicuramente servizi ora aggiunti. Abbiamo già adesso in piano la firma elettronica di documenti, e poi sicuramente tutto il sistema ci vorremmo, diciamo, vorremmo arricchire la piattaforma con servizi anche a livello bancario. Molto interessante e molto importante e, come dicevo, inesorabile, quindi è un argomento da affrontare se siete in un'azienda. Una delle vostre priorità deve essere questa, assieme alle tante altre. Però devo dire che nel sistema, tra le aziende software, tra la pubblica amministrazione, l'Agenzia delle Entrate e tanti altri player, non ultimi i commercialisti, devo dire che ci sono molti che hanno compreso questa trasformazione e stanno cercando di accelerare e spingere il sistema verso questa direzione. Quindi questo è un invito. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di automazione di alcuni processi di trasformazione digitale, e le due cose sono legate, tutto ciò si legherà sempre più anche a sistemi di analisi dei dati, di intelligenza artificiale che riuscirà a aiutare le persone all'interno delle aziende e a volte, in alcuni casi, anche a sostituirsi alle persone. Stiamo parlando di un processo che a tendere potrebbe sì spostare le persone da un punto all'altro dell'azienda, far sì che le persone si occupino di temi e di argomenti più interessanti, a maggior valor aggiunto, però c'è anche il rischio che alcune persone escano dal sistema, o comunque che in alcuni ambiti ci sia una riduzione di personale. Ecco, questo è un aspetto da non sottovalutare, ed è per questo motivo che secondo me tutti coloro che a vario titolo si occupano di fatturazione devono occuparsi di questo tema. Chi prima arriva meglio alloggia, chi prima arriva meglio comprende e magari salva il proprio posto di lavoro. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Bene, tutto per questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast del nostro programma che trovate in onda su Radio 24 il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30 con una mini replica. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, è radio24.it, continuate a scrivermi per raccontarmi come ascoltate e magari anche chi siete, che cosa fate, che mestiere fate, se siete appassionati oppure lavorate in questo settore variegato che oramai coinvolge tutto il mondo. Ci risentiamo la prossima settimana.